la prima guerra di sterminio che la storia ricordi. Perché pare che i Sapiens Sapiens abbiano sterminato i neandertaliani. Nelle note di questi libri che ci raccontano questa antica storia, documentata fino ad un certo punto, si legge: l'unico posto, vedi mo, dove Sapiens Sapiens e Neanderthal sono riusciti a convivere senza sterminarsi è l'Alto Alpino. I neandertaliani abitavano maggiormente l'arco alpino e subirono l'invasione dei Sapiens. Mentre altrove una popolazione sostituì l'altra, qui sulle montagne entrambe le etnie convissero per molte migliaia di anni. Addirittura sempre questi paleoantropologi o sedicenti tali ci dicono delle cose assolutamente inverosimili, tipo che Sapiens Sapiens e Neanderthal non potevano incrociarsi, figuriamoci. È come dire che un cane lupo e un cane da pastore non si incrociano fra loro, evidentemente si incrociavano, e come, solo che lo shock della scoperta di questa guerra di sterminio fu tale, quando si riuscì a capire che effettivamente ebbe luogo, che dovevano dire che le due razze, che erano due razze diverse, che non potevano neanche incrociarsi fra loro. Quindi altra cosa importante che ci fa capire che non è proprio come ce la raccontano è il fatto di quelle che chiamano ancora oggi su tutti i libri, noi troviamo questa parola, invasioni celtiche. Ora, noi sappiamo che dal V secolo in poi ci sono queste migrazioni, che probabilmente però iniziano anche prima, di popoli che vengono dall'Oriente e che piano piano si insediano. Qua preesistono popolazioni di stirpe ligure. Ora, i liguri, chiamati liguri non perché venissero dalla Liguria, ma perché il primo uomo, che poi non era un uomo ma una donna, ecco, siamo appena stati con i compagni di Ventimiglia a fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto qui, quindi ci siamo trovati un fine settimana e la prima serata ci siamo raccontati per bene tutta la storia, e poi il giorno dopo siamo andati a vedere i resti. Ecco, l'uomo di Mentone non era un uomo ma una femmina, ecco, e fu la prima sepoltura che si trovò. Siamo a meno 300.000. E l'uomo di Mentone fu trovato a Mentone, e quindi da allora si parla di liguri. In realtà sta gente qua abitava mezza Europa, fra cui queste zone. Ecco, questa gente accolse queste migrazioni di popoli celtici dall'Oriente. Non esiste traccia di guerra. Quindi questi arrivavano ad ondate, ricordiamo poi come arrivava questa gente qui, perché sta gente arrivava attraverso migrazioni che duravano probabilmente secoli, perché naturalmente questi cosa facevano? Partivano con i viveri dentro nei carri. Quando finivano si accampavano, seminavano, aspettavano il raccolto, tagliavano, seccavano e stoccavano. Quindi immaginate che cosa può voler dire muoversi in questa maniera. Cioè, questi probabilmente a venire dalla Siberia ci hanno messo 3 o 4 secoli, ci mettevano 3 o 4 secoli. Bene, queste popolazioni arrivano e non c'è traccia di guerra. Questo che cosa vuol dire? Ancora una volta che queste popolazioni trovano stirpi, tribù, culture e società compatibili e semplicemente si fondono. Quindi anche questa storia della guerra, per cui sembra, e te la raccontano ancora in tanti, che la guerra sia una cosa necessaria al rapporto umano e che le genti diverse che si incontrano abbiano un solo modo di rapportarsi, sbudellarsi a vicenda, è storicamente falso. Quindi la stessa cosa avviene con gli Etruschi. Noi abbiamo grosse testimonianze del fatto che le popolazioni celto-liguri non solo si fondono con gli Etruschi, ma addirittura ne mutuino l'alfabeto. Noi abbiamo in molti luoghi, per esempio a Verrucchio, Verrucchio è la parte fortificata di Rimini. Una volta la gente non si insediava vicino al mare, si insediava comunque su alture. Questo è tipico, fra l'altro, della nostra civiltà. Bene, a Verrucchio abbiamo un'antichissima cittadella in cui si sono trovate sepolture miste di marito e moglie, in cui il marito o la moglie è celtico e il marito o la moglie è piceno. La popolazione piceno, i piceni sono le stirpi pre-etrusche addirittura, quindi si tratta di contatti antichissimi. Quindi vediamo che ci sono alcune popolazioni con cui la nostra gente si fonde senza bisogno di guerre. Ce ne sono altri con cui invece non c'è verso. Quelli con cui non c'è verso sono principalmente i romani. I romani non li sopportano, ma non li sopportano non solo da quando tentano di invaderli, ma da ben prima. Tanto per capirci, vi siete mai chiesti come ha fatto Annibale a valicare le Alpi? Cioè, insomma, a noi ci raccontano delle storie che oltrepassano il buon senso. Noi purtroppo non siamo abituati a ragionare su quello che ci raccontano su. Cioè, voi immaginate che sbarcano a Marsiglia 4 navi di africani, perché questo erano, con gli elefanti, ma figurati, cioè gli elefanti, capito? Questi arrivano, cioè, non hanno mai visto una montagna in vita loro. La temperatura media a casa loro è dai 30 gradi in su, e cosa fanno? Attraversano le Alpi. Dico, ma signori, allora, rendiamoci conto che i romani consideravano le Alpi abitate dagli spiriti malvagi, sì, che li attaccavano, vero? Dipinti di blu, nudi nella neve, urlando cose raccapriccianti, li facevano a pezzi e se li mangiavano, il che era verissimo. Peccato che questi non fossero per niente spiriti. I romani, tanto per capirci, i romani avevano il terrore della neve. Tant'è vero che anche quando ci furono le strade di fondovalle che attraversavano le Alpi, appena nevicava, finito. Non si ponevano neanche nell'ottica di spalarla. Anche adesso. Sì. È una cosa che, insomma, non entra nella loro abitudine. Quando a Roma sono caduti 3 centimetri di neve, hanno chiuso il Parlamento. Quindi voglio dire, sì, non erano neanche in grado di andare in strada in macchina con 3 centimetri di neve. Per secoli, pur di non attraversare le Alpi, avendo già dei possedimenti oltre le Alpi, pur di non attraversare le Alpi, dicevo, facevano la circumnavigazione della Francia ed entravano da sopra. Erano terrorizzati dalle montagne, dalla gente che ci abitava. Ecco, quando Annibale sbarca a Marsiglia, Marsiglia è era una colonia greca sul mare. Lì i Celti non ce n'erano, perché la nostra gente, il mare, non ci è mai andato tanto d'accordo. Quindi, voglio dire, se questi greci volevano farsi la loro colonia, che se la facessero e che non rompessero più di tanto, infatti li hanno sempre lasciati stare lì, non li hanno mai disturbati. E ovviamente i marsigliesi non disturbano neanche Annibale, anche perché a quanto pare quelli Annibale erano brutti, cattivi e neri, e quindi insomma, e con gli elefanti, e con gli elefanti sì, che anche i greci non amavano particolarmente, voglio dire. Passata a Marsiglia, sta gente comincia ad andare in su, perché a questo punto vengono attaccati. Nessuno, immaginate cosa poteva voler dire diverse centinaia d'anni prima di Cristo vedersi un intero esercito di africani con gli elefanti che va su per una valle senza che nessuno sapesse niente. Vengono attaccati, e a questo punto, e qua capiamo che evidentemente sta gente in qualche modo ha potuto comunicare. Una delle cose che Cesare ci dice dei druidi, per esempio, quindi dei sacerdoti celtici, è che i druidi erano gli uomini più colti dell'antichità, perché sapevano tutte le lingue del mondo. Quindi evidentemente sta gente in qualche modo è riuscita a comunicare con gli africani. E che cosa si sono detti? Allora, Annibale e i suoi obbedienti parlano con i capi celtici e dicono: ma noi non abbiamo nessuna intenzione di disturbare voi. Noi dobbiamo valicare le Alpi e attaccare Roma. A quel punto successe una cosa senza precedenti, che non ha precedenti nella nostra storia. Sappiate che Celti transalpini e Celti subalpini si sono sempre potuti vedere poco, e quando potevano venivano alle mani e se le davano di santa ragione. Per l'unica volta nella storia si mettono d'accordo per far valicare le Alpi ad Annibale, che viene praticamente portato per mano di là. Ma non solo, sappiate che la stragrande maggioranza delle legioni che combatterono i romani non era formata da africani neri, che nel frattempo erano già crepati di freddo e di fame per più della metà, ma erano contingenti celtici. Questi, appena hanno saputo che quelli là attaccavano Roma, si sono accodati in massa, giusto solo per il gusto di dargliene un sacco una sporta. Quindi vedete, sì, cioè, c'è sempre stata questa incompatibilità di carattere che insomma i secoli non sono riusciti a sanare. Ecco perché? Perché la nostra gente non ha mai sopportato, e questo è vero, gli invasori e chi intendeva non tanto vivere assieme a loro, perché d'altra parte le Alpi hanno sempre ospitato e dato rifugio a fuggiaschi, eretici, streghe e fuorilegge di ogni genere, ma a chi ha voluto imporgli un giogo schiavistico e delle idee che non erano le loro. Tant'è vero che la stessa reazione che hanno avuto con i romani c'è stata con i cristiani. Nel senso che noi abbiamo tantissime leggende, tantissimi report storici di vario genere che ci raccontano come i cristiani fossero stati combattuti in vario modo. Per esempio, se noi leggiamo le storie dei martiri e prendiamo questa storia, una delle più famose, dei tre martiri della Val di Non, e di San Vigilio, vescovo di Trento, ritratto con l'arma del proprio martirio. Qualcuno si ricorda con che cosa viene ritratto San Vigilio? Signori, non andate in chiesa, non andate in chiesa, ma insomma, signori miei, il posto migliore per ogni buon anticlericale sono le chiese, perché in chiesa si trova di tutto di più. Allora, per bestemmiare c'è un'acustica. No, ma non serve bestemmiare, c'è il resto. Allora, San Vigilio, ecco, vescovo santo e martire, viene ritratto con uno zoccolo di legno in mano. Okay. Esatto. Allora dici, ma com'è sta storia? Allora, San Vigilio con altri due disgraziati, vero? Andava in giro a predicare la buona novella. Immaginatevi che due palle che faceva sta gente, no? Che già c'aveva tutto a cui pensare a parte la buona novella loro. Però insomma, finché predicava, pace bene, e infatti, capito, lui predicava e questi letteralmente lo lasciavano cantare, fino a che arrivò in un posto, appunto in Val di Non, dove questi celebravano la festa del pubblico maiale. Cos'è la festa del pubblico maiale? Cioè, sta gente qua nutriva, tutto il villaggio nutriva questo maiale che si aggirava, era una tradizione che poi fra l'altro è sopravvissuta per molto tempo anche dopo, nutriva sto porcellino, insomma, da piccolo con tutti i rifiuti delle cucine, che vi assicuro che non dovevano essere molti i rifiuti, perché sta gente mangiava tutto. Però insomma, glielo davano. Quando questo diventava bello grasso, gli facevano letteralmente la festa, e con tutto ciò che questo comportava, no? Ovviamente San Vigilio e quegli altri due cominciarono ad urlare contro questi miscredenti che facevano le feste orgiastiche, si ubriacavano e facevano tutte le peggio cose, maledicendogli e dicendogli che sarebbe arrivato il demonio a portarseli nell'inferno. A sto punto la gente, che non ne può più, anche perché per molti era l'unica occasione nell'anno di mangiare carne, quindi figuriamoci, li hanno presi a zoccolate. Non li hanno lapidati, si sono tolti le scarpe e, ripetendo un gesto arcaico che si è visto anche ultimamente, appunto, esatto. Allora, signori, io dico che esiste la memoria arcaica. Al momento buono la gente sa sempre che cosa deve fare. E insomma, questi, non potendone più, gli hanno buttato le scarpe addosso. Solo che, essendo dei rudi montanari celtici, avevano dei grossi zoccoli di legno e quelli ci sono rimasti sotto. Ragion per cui il San Vigilio era presentato con lo zoccolo in mano. Ora, questa lotta contro il cristianesimo durò per secoli e secoli e secoli, in vari modi e con varie misure, e le case dei pagani sono proprio una delle testimonianze di queste antiche lotte. E adesso cedo la parola a Peter. Va bene, ecco, volentieri, grazie. Che andrà avanti con la narrazione. Lui ha fatto un libro bellissimo. Allora, che non c'è più il libro, vero? Ma sì che c'è. Ma sì, è andato un po' disperso. Certo. Ecco. Come il pagare, per quello c'è. Certo. Non l'ha preso su, ma c'è. Questa presentazione qui, in realtà, è già stata fatta 15 anni fa. Non uguale, tu non c'eri, io non c'ero, ma 15 anni però, fa, no, ma lo qui dico la metà di questi non era neanche nato. Infatti, non lo so. Ed è stata fatta al vecchio mulino. Quando, prima che mano fascista, mano governativa, tutte e due insieme, lo incendiassero. E lì, in quell'occasione lì, avevo terminato la presentazione dicendo: c'è però una cosa da dire sulle case dei pagani e sulla presenza dei pagani e su tutta questa storia, che il mistero permane. il mistero permane. Ora, dopo 15 anni, siamo ancora lì. Il mistero permane, tale quale. Non è che si sia raggiunte grandi novità, grandi scoperte, grandi cose da dire. Ah, abbiamo risolto il problema delle case dei pagani. Dico problema perché, poi vedrete, perché ci sono decine di ipotesi varie che si sono contrapposte nel corso degli anni su questa faccenda qui. Anche se io condivido la sua impostazione al 100%, però purtroppo io chi sono? Non è che... noi siamo. Sì, cioè, noi siamo. Poi quello che ci raccontano non c'è. Esatto, noi siamo. Vabbè. Ecco, prima di entrare nella discussione su cosa sono queste case dei pagani, vorrei proprio, ma in un secondo, presentarle materialmente, dal punto di vista proprio fisico, di cosa stiamo parlando, perché è un po' una cosa particolare, nel senso che ha fatto bene lei a dire che nell'arco alpino si parla, non solo, anche in pianura, si parla di queste buche dei pagani, grotte dei pagani, sentieri dei pagani, prati dei pagani, ce n'è di tutto e di più. È una cosa costante che poi va a nostro favore. Comunque è una cosa costante che si ritrova, nella Val di Blenio c'è un accumulo incredibile di queste vestigia che hanno questo toponimo qua. In realtà cioè, fisicamente se ne vedono poche, se ne vedono sostanzialmente due. Bene, ecco che dove è rimasto un muro costruito, eccetera, ed è quella di Dongio e quella di Malmaine, che sono quelle che visiteremo anche grazie anche al contributo di lei e di suo fratello, che ci accompagneranno lassù, che anzi andrete voi lassù, perché io sono vecchio, vado al bar e voi andate lassù a vedere cosa c'è. Ma senti cosa dice questo? No, io li faccio con voi. Noi cosa siamo? Noi in Neanderthal, no? Certo, sì. Ho 47 anni, sì. Allora, e allora queste poche rimaste dicono però molte cose, ma anche le vestigie delle altre dicono molte cose, cioè ci dicono soprattutto che erano costruzioni atipiche, comunque. Costruzioni fatte per la difesa, nel senso che si vedono delle traverse, costruzioni di muratura fatte in modo che da lì non si potesse avvicinare, dove magari c'era una cingina stretta che però magari poteva permettere un passo a qualcuno. Lì facevano regolarmente dei muri di blocco in modo che non si potesse passare lì. E abbiamo un altro aspetto che è molto importante per quello che riguarda Val di Blenio, ed è la data presumibile di costruzione, che si colloca cioè più o meno per tutte queste case attorno all'anno 1900, 1100, insomma è un po' difficile. Su questa cosa qui abbiamo poi anche ci sono state fatte delle ricerche col C14, nel senso che abbiamo delle cose serie, non è che è una cosa inventata. Sappiamo che veramente sono state costruite in quegli anni, cioè C14 come analisi del carbonio sul legno, insomma. E poi abbiamo, questa è la cosa più caratteristica, il legame del toponimo con le leggende. Ora qui si entra nel complicato, nel senso del complicato, perché su questa discussione qui si sono sprecati fiumi di parole, poi magari ve lo spiega meglio lei che è un esperto, però voglio dire, si è posto questo discorso, ma tu mi dici queste leggende qui parlano di queste cose, le leggende dicono che c'era la pagana, c'era questo, c'era quest'altro, che abitavano in quei posti lì. Allora ci si pone, ma le leggende sono affidabili o no come documento storico? Uno può affidarsi a queste robe qui del tramandato? Vorrà dire qualcosa il tramandato o è semplicemente una ricostruzione posteriore, un modo per in qualche modo esorcizzare delle paure proprie o cose del genere? Ma su questo discorso magari torneremo ancora. Ad ogni modo, ecco, materialmente si tratta di questo. Nel complesso del Ticino si parla di 15 luoghi, più o meno 15 luoghi che hanno questo toponimo case dei pagani, di cui alcune non veramente legittime, ecco, per esempio il castello di Chigionia è di dubbia attribuzione, nel senso che non si spiega la presenza lì e si stima che sia stato costruito nel XIII, XIV secolo, non proprio in quello da quel momento. E poi c'è il vostro Tribeuc qua giù, sopra i grotti di Mendrisio, che alcuni ritengono che sia una casa dei pagani, però è molto dubbio, anche perché lì ci sono già dei infissi di ferro che nelle altre case dei pagani non ci sono assolutamente. Ci sono e poi si è stimato che sia stato costruito verso il 1400, più o meno, la struttura stessa del modo in cui è stato costruito si pensa sia piuttosto un rifugio di piccola nobiltà, ecco, che non una casa dei pagani. Però in Val di Blenio ci sono queste case dei pagani, effettivamente ci sono, di regola sono costruzioni attaccate sulla roccia. Questo è un altro elemento importante, la posizione, una posizione inespugnabile teoricamente, in realtà tutto è espugnabile, però teoricamente inespugnabile, appiccicata o in grotte, cioè o su cenge, insomma in situazioni comunque estreme, elevate, di difficile accesso, anche per costruirle, perché prima era proprio quello, e lì appunto le permangono comunque una decina, di cui appunto si rimangono soprattutto dei basamenti, dei pezzetti di muro, eccetera. Invece quelle due lì, cioè di Malvaglia e di Tongia, effettivamente presentano ancora qualcosa di bello da vedere, di impressionante. Io lo posso dire perché veramente ti resti lì così quando le vedi, non è mica possibile che abbia fatto una roba del genere, che è veramente fuori di testa. Queste costruzioni qua sono fuori di testa. Ora, più o meno questo è il quadro, diciamo così, materiale, ecco. Dopo, vi dico già subito alcune cose, nel senso che le ricerche sono state fatte soprattutto dall'architetto Hoebel negli anni 70, mi sembra. Negli anni 70. Ha individuato delle cose, dei reperti in quelle case lì, che gli hanno fatto capire che comunque erano abitate, nel senso che poi dopo vedrete che saltano certe teorie tipo posti di vedetta così, sì, essendo abitate, capito? Cioè ha trovato dei pezzi di stoffa, dei pezzi di cuoio, dei pezzi di resti di cibo, resti di cibo, anche di terrazzamenti, dove si pensa che magari sono state coltivate dei cereali, dei piccoli orti, esatto, delle cose per cucinare, sono state trovate delle pergamene, delle monete di origine italiana risalenti al periodo fra il 1100 e il 1300, per cui da tutte queste cose qui altre prove ha dedotto che in realtà fosse abitata. Quindi ecco, abbiamo questo quadro materiale, no? Tra l'altro oggi è veramente difficile andarci, cioè a Dongio ci arrivi, puoi arrampicarti su e ci arrivi con un po' di fatica, a Malvaglia o sei bravo non ci arrivi, insomma, cioè bravo vuol dire che ti leghi e ti inchiodi, magari lei sa delle strategie, però è fatica veramente arrivarci, una cosa. E lì si pensa, ecco, così vediamo la cosa materiale, si pensa che esistevano comunque delle passerelle di legno, certo, per permettere l'accesso a queste cose in modo un pelino più agevole. Anzi, sempre questo Erdo di cui vi dicevo prima ha trovato le tracce di animali da soma, che quindi vuol dire che qualcuno lì ci andava in questi posti, addirittura magari con questi animali da soma. Ma ecco, adesso per dire, entrare proprio nel dunque del discorso, le interpretazioni. Allora, ovviamente il primo che ne ha parlato diffusamente, a qualche accenno c'è già prima, anzi il primo accenno alle case dei pagani che ho trovato io risale al 1760, ma è un accenno proprio di uno che dice, mi sembra un prevosto, che dice che ci sono, ecco. Beh. Ci sono, e basta. Però Bertoni, lo se Bertoni se ne occupa. Ora, io, sinceramente, le case dei pagani le ho scoperte studiando Bertoni, non il contrario. Io non sapevo neanche esistessero queste case dei pagani. Dopo, studiando Bertoni, che mi interesserà per altri motivi, ho visto, ma questo è scritto una cosa sulle case dei pagani che io non conoscevo, e la cosa era talmente affascinante che mi sono lasciato ciappare per questa storia qua. E devo dire la verità che Bertoni è comunque uno che le cose le ha analizzate con uno spirito critico che in altri poi non lo trovi facilmente. Nel senso, perché è dei nostri, perché è dei nostri. Ora, lui, dico subito, lui dice, è forse l'unico che in questo modo schietto, dice, queste case qui, se c'è tutte queste leggende, tutte queste prove, eccetera, se si chiama casa dei pagani, vorrà dire che ci abitavano gli ultimi pagani che cercavano di sfuggire alla, diciamo la parola brutta, la persecuzione cristiana, possiamo dire. È una parola bruttissima, vorrei non doverla dire, però ecco, purtroppo c'è questo fatto qui. Ecco, lui alla fine del suo lavoro, a un certo punto, presenta una leggenda, poi vi dirò, e dice, però in fin dei conti io mi rendo conto che magari questi pagani non erano poi così cattivi come ce li voglio presentare oggi come oggi. Difatti, c'entra anche la biografia del personaggio, perché voi sapete, forse non lo sapete, cioè sto Bertoni, suo papà, Ambrogio, è andato a Milano a studiare da prete. Dopo l'hanno cacciato dal seminario per le sue idee progressiste, è tornato a finire gli studi in Ticino e ha fatto il prete per 5 anni e poi non ne poteva più, ha smesso. Ha scritto un libro molto cattivo contro la Chiesa, si chiama 5 anni di sacerdozio, che dà una stangata spaventosa alla Chiesa. Quindi in famiglia c'era, diciamo, una predisposizione vissuta a leggere le cose con occhi un pelino diversi dal generale. Da quello che si leggeva in generale, ecco, e comunque lui a un certo punto dice alla fine, insomma, questi pagani non sono forse così cattivi, e questa cosa qui se la porta dentro, perché poi quando va in Paraguay, che voi sapete che questo qui dopo è andato in Paraguay a creare una colonia anarchica comunista lì, poi la cosa non ha funzionato, comunque poi lui si è innamorato, possiamo dire questa parola, innamorato dei Guaraní, della popolazione di lì, e in questi, diciamo, pagani, selvaggi, quello che volete voi, perché poi selvaggio e pagano si lega molto a livello alpino, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile, è sinonimo. Benissimo, esatto. E allora cosa succede? Che questo qui lì riscopre le cose che ha lasciato nelle Alpi e riscopre questa, lui parla proprio di rispetto della natura, sembra, lui è un ecologista antelitero, dice no, ma ci sono queste creature, loro credono, questi Guaraní, queste creature che aiutano a gestire il rapporto con la natura, per cui ogni cosa è in fondo viva, ma con un, ma poi non è che creda tutte queste cose, ci sono questi spiriti che ti dicono tu non mi devi uccidere adesso, aspetta che ingrasso un po' di più, cioè, è una cosa del genere, no? Lui questa cosa qui se la porta, secondo me, dal di qui, dalle Alpi, cioè lui legge poi questi Guaraní anche con gli occhi di chi ha letto le case dei pagani in quel modo lì, come lui ha fatto. Perché la cultura è molto simile, la cultura nostra è una cultura animista, cioè la cultura pre-cristiana è una cultura animista, una cultura degli spiriti della natura, una cultura sciamanica, come quella dei secondo Guaraní. Secondo me sì, esatto. Vedi come lei parla bene, quindi mi mette a posto le cose che voglio dire. Allora, come la puoi assumere? Parli benissimo, guarda. No, niente, poi dopo dico appunto questa storia qui del Bertoni là, mi ha fatto anche me rileggere questa storia, perché lui ha scritto una ventina di pagine, proprio per poche cose, con tutto un altro modo di vedere poi alla fine, no? La cosa poi mi ha preso molto. E, ecco, Bertoni, lui sostanzialmente porta a prova di quello che dice, le cose che ho detto prima, di architettura, in più lui porta un'altra prova, altre prove importanti, la cristianizzazione tardiva delle Alpi. Ora lì si può discutere, perché c'è tutta una bega che vi risparmio, su chi dice: ah, ma la cristianizzazione è venuta da sud, ah, ma la cristianizzazione è venuta da San Colombano da nord, un bordello del genere, che interessa poco, però c'è un fatto: se fosse venuta da nord sarebbe veramente tardiva, nel senso che si parla di 4-5 secoli di scarto rispetto al 200-300 della cristianizzazione del sud. Quindi qualche importanza questa discussione qui ce l'ha. E poi lui ricorda: ma c'è un enorme retaggio poi da noi di tradizioni pagane. Voi forse non ci fate caso, ma c'è il carnevale, c'è questo, c'è quest'altro, che c'è la festa di Bacco, di Ponte Valentino, tutte cose qua che invece fanno capire che qui è ancora molto fervido lo spirito pagano, il ricordo, esatto. Ora, su questo discorso qui bisogna far pensare anche un'altra cosa, un'altra possibilità. Forse non è proprio così, insomma, si dice che le prime chiese di cui si ha traccia in Val di Blegno siano state costruite attorno all'anno 1900, più o meno, di cui si ha traccia, magari qualcosa prima, però. Però può anche esserci stato un paganesimo di ritorno, e di questo si parla per esempio con l'arrivo di famiglie longobarde in Val di Blegno, che ha portato queste cose qua. Tutto il discorso che ha fatto lei prima sugli abitanti della Valle di Blegno, secondo me ci stavano attendendo, anche perché sembra dalle testimonianze che si sono riuscite a raccogliere finora, che addirittura convivessero Celti, Reti lì proprio tutti insieme nella valle, e che chi a metà, chi sopra, chi sotto, e che quindi questa cosa qui, cioè questi antichi abitatori, convivessero tranquillamente in questa situazione. Posso interrompere? Oh, come no? Allora, riguardo al paganesimo di ritorno, un'altra storia che a noi ci hanno raccontato e che però sfugge al nostro buon senso è quella di queste invasioni dei barbari, per cui ad un certo punto ti dicono: l'impero romano cade perché arrivano sti barbari viaggiavano, come vi avevo detto prima, perché non è che questi qua arrivavano così. Allora, con l'andare avanti delle ricerche sono state rinvenute una serie di lettere che io fra l'altro ho pubblicato nell'ultimo libro di storia delle donne. Perché? Che cosa succede? Cioè, questa storia dei barbari non mi ha mai convinta, perché io dico: ma com'è possibile che l'impero romano, dotato di un esercito professionale, dotato di strade, dotato di fortificazioni, dotato di tutto quello che c'era, si fosse fatto distruggere da quattro disgraziati che viaggiavano in carovana simili ai Rom? Perché questi qua andavano in giro coi carri e con quattro ronzini. E anche questi mangiavano quello che capitava, per cosa avevano a depredare questi? Cioè, ma avete presente dove passavano questi? Ma cosa depredavano? Evidentemente qualcuno gli dava da mangiare o gli permetteva di stanziarsi in dei posti dove potevano coltivare, aspettare che crescesse, raccogliere e andare. Non solo, un'altra cosa che ci sorprende, diceva: insomma, ci sono questi barbari cattivissimi, bruttissimi, orrendi, assetati di sangue che arrivano. Oh, e nessuno dice mezza parola. Le popolazioni di confine, così tanto cattive come le nostre, vero? Arrivano questi disgraziatissimi esseri e non fanno niente. Ora, noi sappiamo adesso, e c'è qualche storico che sta cominciando anche a dirlo, che le cose andarono molto diversamente, come c'era da pensare, perché la storia di questa invasione di sti barbari non sta in piedi. Lo stesso Attila, che a noi ci viene tramandato come il peggio disgraziato, il peggio sanguinario, flagello di Dio e di tutti, e in tutta la cristianità è ricordato come questo re sanguinario, assetato di sangue, flagello di Dio, ammazzatore di sacerdoti, che insomma vabbè, ecco. Oh, signori, nell'unico posto dove Attila ci andò davvero, che era Friuli, Attila è ricordato nelle leggende popolari come un grande uomo, un uomo giusto e un grande giudice, difensore dei poveri, degli orfani, dei deboli e soprattutto delle donne. Tanto è vero che ancora oggi uno dei nomi molto comuni in Friuli è appunto Attila. Nel resto della cristianità non c'è nessuno che chiami Attila i propri figli, nessuno. Oltretutto, sapete che una volta non si poteva chiamare uno con un nome fuori dal calendario, perché Sant'Attila non l'hanno ancora fatto. In Friuli, cioè da quando è arrivato lui, c'è un sacco di gente che si chiama Attila. Ora, sì, evidentemente c'è una ragione, perché se questa gente continua a chiamare Attila i propri figli contro il parere del prete, e sono quasi 2000 anni che sta gente continua, 1500 anni, sì, che sta gente continua a chiamare Attila i propri figli. Allora, in realtà che cosa abbiamo scoperto? Allora, la caduta dell'impero romano è preceduta da una crisi economica che parte dal fine del secondo secolo in poi, dal fine del terzo secolo, scusatemi. Allora, che cosa succedeva? Che lo Stato romano era talmente sanguisuga che quando non riusciva più a cavarti niente perché ti aveva tolto tutto, ti costringeva, e soprattutto questo nel caso delle donne, a vendere te stessa in schiavitù al mercato. Se una donna era costretta a vendersi in schiavitù, anche i propri figli, i suoi figli venivano venduti. Molte di queste donne cosa fanno? Cominciano a passare la frontiera e a rifugiarsi nelle comunità barbariche e poi scrivono, e noi abbiamo queste lettere, evidentemente perché si tratta anche di matrone di una certa levatura sociale, cioè di gente che sa scrivere, perché se no ovviamente queste non scrivono. E scrivono: noi abbiamo ritrovato l'umanità romana fra i barbari. Questo scrive. E noi abbiamo buone ragioni per supporre che quando sta gente comincia a venire, la popolazione, che è popolazione comunque di matrice celtica, quindi molto affine a livello di cultura con questi qua, Longobardi, Germani, Traci, eccetera, la popolazione gli apre le porte e li accoglie come liberatori. Anche perché questi qua del cristianesimo già non li potevano vedere. Teniamo conto che la parola pagano non vuol dire adoratore di idoli, ma vuol dire abitante del villaggio, per cui i cristiani, il cristianesimo è una religione di città che non fa altro che supportare il potere delle burocrazie, delle aristocrazie, dei patriziati cittadini. E questi qua danno dei pagani a chiunque stia fuori dalla cerchia urbana. Dare del pagano come dare del villico, come dare del montanaro, del contadino, per un romano da bene era considerarti meno di una bestia. La nostra gente ne aveva perfettamente coscienza, perché celti sì, ma non scemi. Sì. E quando sta gente comincia ad arrivare, questi li accolgono e se li tengono, e finalmente possono smettere di far finta di essere cristiani. Per cui sicuramente c'è stato un movimento di paganesimo diurno, chiamiamolo paganesimo diurno, no? In realtà la nostra gente non è mai stata neanche cristianizzata, perché ricordiamoci che fino al Concilio di Trento non tutte le parrocchie avevano l'obbligo di avere un prete, tant'è vero che la gran parte delle parrocchie alpine il prete non ce l'aveva, arrivava lì due volte all'anno, amministrava i sacramenti e poi se ne andava, e quindi la gente continuava a praticare la religione che aveva sempre praticato. Per la Francia noi abbiamo dati certi e noi sappiamo che fino all'anno 1000 esiste il culto druidico organizzato con scuole druidiche e tutto, ed è quello di cui si parla fra l'altro nel ciclo arturiano, nel ciclo di Re Artù, quando questi cavalieri vanno nella foresta e vengono addestrati. Quindi noi abbiamo queste testimonianze. Da noi non è rimasta testimonianza scritta, è rimasto il resto. È rimasto il resto, esatto. Cioè, per esempio, quando il carnefice San Carlo Borromeo viene su, lui scrive nelle sue visite pastorali, lettere pastorali. Esatto, sì. Scrive: ah, ma di voi lì i preti vanno con le bagasce? No, no, ma sono parole del santo, cioè, naturalmente, cosa vorrebbe che dicesse il santo? È una situazione insostenibile, non se ne può più di questa roba qua. Praticano anche delle cose che non vanno praticate. Per esempio, ci sono preti che vanno in montagna e parlano con i serpenti, roba cioè succede di tutto e di più. Cioè, veramente c'è ancora una stretta presenza comunque di paganesimo in manifestazioni cioè, non conformi alla dottrina cristiana. Ecco, questo io voglio dire. Soprattutto, tant'è vero che poi il carnefice ammazza parecchie cosiddette streghe nelle tre valli, nel lavoro della Raffaella La Rocca si parla proprio delle tre valli stregate in ricordo di queste vicende qua. Ecco, però Bertoni, per tornare alla sua interpretazione delle cose, lui appunto valuta molto importante la testimonianza non del tutto a casaccio, perché è stato poi accurato successivamente che effettivamente c'è una coincidenza incredibile fra le leggende che parlano dei pagani e i posti che hanno il toponimo pagani, case, grotte, prati dei pagani. Cioè, queste qui non nascono così dappertutto, ma sono legate al posto queste leggende. Allora, c'è questa leggenda che racconta Bertone, ma che racconta molti altri, ed è quella appunto della pagana buona, che si racconta che c'è questa gente che conosce i segreti della terra, delle piante e del cielo, che abita nelle case dei pagani, e che una volta successe così che una mamma pagana, siccome che aveva il figliolino che gli è nato da poco malato, lo porta giù nel paese per scambiarlo con uno sano di una cristiana, no? di una di lì, insomma. E effettivamente lo rapisce questo bambino, mette nel culo, quel che sia, mette suo e lei se ne va. Allora, dopo lì ci sono varie varianti di questa leggenda. Una dice: ah, ma dopo questa mamma qui disperata, quando vede il peloso e nero, questo bambino peloso, ovviamente peloso e nero, scusami, peloso e nero, peloso e nero. Lì nella culla lo punge e lo mette, che poi è crudele, gli mette la testa sotto la grotta dell'acqua mentre stava piovendo, così la goccia che gli cade in testa, le volte sono assurde le cose. E finché piange questo bambino, e la pagana dopo un po' viene giù e rifà lo scambio e dice questa frase che è una, io però al tuo non ho fatto quello che tu hai fatto al mio, ecco, e poi torna su quel bambino malato e non si sa come è finito. Vabbè, questa è la storia della pagana buona, ma questa storia qui, al di là della sua cosa un po', è forte, perché non erano così le storie. Di solito le storie erano il contrario, di solito le storie che il pagano era cattivo, era l'unoc, o era selvatico, ma cattivissimo, che veniva giù e faceva bruttissime cose, dispetti, rubava. Qui no, c'è una cosa, un'inversione che comunque è bizzarra, non è normale questa cosa. E questo fa comunque pensare che c'è qualcosa in più che non soltanto una storiella così, no, per far paura ai bambini. E poi si è detto anche questo: se le storie sono state inventate per non far andare i bambini da su, perché bambino, che era impossibile. Vabbè, per dire che poi questa cosa qui si ripete, perché c'è poi anche quella lì, che siccome che si riconosceva comunque questi meriti alle pagane, ci sono delle storie di aiuti che si vengono chiesti, ma anche reciproci poi, e ritorniamo al discorso che facevi tu, ma anche reciproci, nel senso che anche le pagane, quando hanno bisogno, poi scendevano. E difatti una volta hanno chiesto a una cristiana di una cosa che loro non sapevano fare, evidentemente curare non so che malattia, e questa cristiana va su, fa questa cosa e loro gli regalano questo carbone. E questa qui lo butta, questo carbone, che cosa faccio il carbone? Invece erano pezzi d'oro, difatti quando arriva a casa si ritrova pezzi d'oro. Ma questo di per sé, al di là della banalità della storia, è importante vedere che non erano considerati malvagi questi qua, no. questi pagani nelle storie. Però quando poi si comincia ad arrivare il carnefice, dopo le storie diventano cattivissime, perché dopo col carnefice succede che le storie si trasformano. E i Kreusch, i Grebel e i pagani incominciano a demonizzarsi, diventare piccoli, prima di tutto diventano nani nella storia, diventano nani che il santo carnefice chiama con la panna su una betulla sopra un dirupo e poi li fa cadere nel dirupo a sfracellarsi al suolo. Ecco la carità cristiana, poi come resta prevista, no, ecco, poi, diciamo, è la stessa immagine dell'uomo selvatico, no? Esatto. L'uomo selvatico che non nasce peloso, l'uomo selvatico che nella tradizione nostra, che appunto è sinonimo di pagano, perché spesso e volentieri selvatico e pagano sono precisi. E nelle prime leggende, nelle prime immagini, è un uomo normale, sì, con i capelli lunghi, la barba lunga, la clava in mano o l'albero sradicato sotto sopra, però è un uomo normale, vestito di pelli, però normale. Poi comincia a diventare l'uomo tutto peloso e poi addirittura viene ritratto non solo piccolo, ma a quattro zampe. Viene animalizzato, no? In realtà quello che queste leggende, sia quelle dei pagani, ma in generale tutte quelle dell'uomo selvatico, ci tramandano, quando non c'è ancora la demonizzazione della Chiesa, è l'immagine delle popolazioni in fuga, di un gruppo etnico che si rifugia imposti inaccessibili per poter sfuggire all'assimilazione, ma che comunque mantiene dei contatti con la gente del paese, cioè come gli zingari. Guardate che questi qua, se noi non sapessimo che siamo a 1000-1500 anni fa e noi togliessimo le denominazioni, potrebbero essere gli zingari. Oltretutto questi qua non fuggono dagli abitanti del paese, con i quali invece continua ad esserci uno scambio, no? Soprattutto nella cura, perché per esempio per me la leggenda del bambino sostituito a me mi dà molto l'idea che sta povera Crista avesse sostituito il bambino, perché lei su in cima ai bricchi non poteva curarlo e quindi lo mette in un posto dove magari c'era qualcuno che poteva curarlo e lo sostituisce e si prende quell'altro, perché nelle case di povera gente non è che puoi averne due invece che uno, quindi gli lascia il suo e si piglia quell'altro, perché dice beh, mentre tu vedi di farlo magari anche soltanto per farlo stare al caldo, perché in queste case dei pagani il riscaldamento secondo me doveva essere problematico. Ecco, e dicevo, il rapporto conflittuale non è tanto con la gente dei paesi in cui si intravede una rivalità, per dire l'uomo selvatico che ci racconta la leggenda che viene preso in giro perché è uno che non parla, perché è uno timido, però viene soltanto preso in giro. E soprattutto vediamo che come in tutti gli scambi fra due gruppi etnici diversi, chi è che materialmente scambia? L'elemento femminile. Sì. Ecco, quindi è proprio preciso, no? E questi qua che non fuggono da quelli dei paesi, ma che fuggono però da entità esterne, il santo carnefice, cioè gente che, cioè probabilmente questi con la gente già cristianizzata dei villaggi hanno convissuto per secoli. Quando arrivano inquisitori, missionari e gentaglia di vario genere, soprattutto a quanto abbiamo capito noi, quando al clero degli ordini, quindi ai monaci, con i monaci noi non abbiamo situazioni di conflitto, anzi, spesso i monaci vengono accolti bene, anche perché sono gli unici preti che si insediano in montagna e spesso i monasteri sono centri di cura, per cui il monastero viene lasciato stare. Quando invece dei monaci comincia ad arrivare sta gente qua, che deve evangelizzare, che fonda i tribunali e porta l'inquisizione, allora lì si comincia il conflitto. Quindi vediamo che non è il cristianesimo in senso stretto che la nostra gente non vuole, perché il monasteri è pieno l'arco alpino e non si è mai avuto grosso problema col monaco in monastero, ma sono questa gente. Sì, infatti. Ecco. Ancora per dire l'ultima cosa su Bertoni, che dopo passiamo al prossimo. Insomma, Bertoni alla fine della fiera dice: guardate, mettete come volete, questi qui sono rifugi dei pagani. Con questa affermazione lui chiude. Cioè, nel senso che lui dice: non ci sono altre ipotesi plausibili, perché passa in rassegna tutte. Ora, in seguito sono subentrate altri storici, critici, ricercatori, eccetera, che hanno comunque ripreso il discorso di Bertoni, quel che lui aveva già scartato, proponendo altre interpretazioni. Ora, la più interessante, subito dopo la sua, è quella di Salvioni. Sto Salvioni ce l'ha soprattutto col Bertoni, perché questo, come lui era anarchico, questo Salvioni, era anarchico in gioventù, poi è passato dai conservatori, allora lui gli dispiaceva che questo qui elogiasse i pagani, ovviamente, anzi, cioè che lui, anzi, che lui dicesse, ah, ma no, i pagani dovevano scappare dai cristiani, una cosa che lui non poteva concepire, questo Salvioni. Allora ha inventato un sacco di storie per dire, no, tu, prima di tutto, la cristianizzazione era privilegiatura, notoriamente prendevano l'aria buona e andavano su. E vabbè, comunque ha fatto tutta una serie di considerazioni sulla cristianizzazione che è venuta da sud e non da nord, e quindi non funziona la tempistica che ha messo Bertoni, e che poi tutte queste cose qui non sono così come le ha descritte lui, no. Anche lui non poteva sapere tutto, perché sono ricerche che sono fatte state, no, bisogna dirlo, certo. Con rispetto della sua ricerca bisogna dire che non poteva sapere tutto. Però appunto lui dice, allora vediamo un po', queste qui potrebbero essere state delle dei castellini, piccoli castelli di difesa. Ora, questa storia dei castelli di difesa ritorna spesso, ma è un po' bizzarra, perché è vero che sono difficilmente espugnabili, però dopo tu, se sei su per 2-3 settimane ci stai, ma dopo hai finito di vivere, perché prima o poi qualcosa dovrai fare, o mangiare, o scendere, insomma... E quindi qualsiasi assedio di quel posto lì, perché sono piccoli, non è che puoi avere il rinvio, non serve assolutamente. Cioè l'idea di avere quel lì un posto, se la sono creata loro questa immagine qui, non sono in posti strategici. Però questo Salvioni butta là un'altra ipotesi, dice, ah, magari erano rifugi delle streghe. Perché se erano le zuppe campagnane, ora esattamente. Cioè, voglio dire, allora lui, per non dire sono pagani, dice magari potrebbero essere state streghe che sono pagane, cioè, non è che sia furbissimo questo, no, non è furbissimo, questo non è per, anzi sicuramente erano l'uno e l'altro, esatto. Cioè, e questa è la sua considerazione, è una considerazione che va bene, l'accettiamo così com'è. Poi dopo arriva quell'altro, Pometta. Sì, Pometta è interessante, perché Pometta dice, ah, ma voi non avete considerato una cosa, che nell'Ottocento, fine Ottocento, le nostre valli sono state travagliate dal passaggio dei Saraceni. I Saraceni, i Mori, cioè, dappertutto sono andati in tutto l'arco alpino. Questi Saraceni li abbiamo dovunque, qualunque cosa viene, ce la menano con questi Saraceni. O nessuno ne ha mai visto uno, mai. Scusate, mai. Ci sono delle leggende che parlano che avrebbero risalito Rodano. Ma certo, però pare che le irrigazioni che c'hanno, le pische che c'hanno in Vallese, sia una. Si suppone che sia tecnologia che hanno portato gli arabi. Sono delle versioni. Non so se è vero, sono supposizioni. Beh, questi saraceni c'erano, erano qui, insomma, c'era dalla Francia, si erano dell'Islam. No, dalla Francia si erano diffusi anche nell'arco alpino. Notoriamente. Troviamo dappertutto. Ci sono. Questi saraceni venivano dal Nord Africa, in sostanza erano come adesso, ci sono anche adesso di arabi e berberi, da quel che si è capito, perché poi non è che siano rimaste cose scritte, non si sa molto, tant'è vero che questi qua allora erano gli unici che sapevano scrivere, ma non sono rimaste cose scritte, questo anche è sintomatico, no? Ecco, tant'è vero che questi di questi saraceni, che appunto probabilmente sono venuti dalla Francia, dalla Napoli, sono venuti su, eccetera, eccetera, ha fatto tutto questo giro qui, nei Grigioni si hanno delle tracce di presenza, però qui da noi non se ne sa molto. Però questo Pometta immagina che potrebbero, perché poi voi sapete che Lucomagna allora è l'unico passo agibile tra il centro delle Alpi, l'Italia, San Gotardo ancora non lo passavi, cioè, certo. Era fatica lì, dove essere un alpinista per passarlo, invece gli elefanti. Vabbè, gli elefanti invece quelli passano dovunque, sappiatelo. Notoriamente gli elefanti passano, sì, vabbè, però anche i saraceni. Allora lui ha messo, lui ha detto: allora, queste case pagane sono delle. C'è una cosa da dire che è bizzarra. Nella stemma di famiglia della famiglia dei pagani della Val di Blegno, nello stemma di famiglia è rappresentato, indovinate, una faccia di moro con una bandana da moro, non so, una bandana. Sembra un po' cosa della, come della Sardegna, che è che la Corsica, che è sia la Corsica che la Sardegna, c'erano tutte e due perché questi qua erano diffusi. Ecco, e loro, questi pagani, hanno questo qui. Ora è vero che gli sempre pagani erano, sempre pagani erano, signori, è vero che la cosa stemma la famiglia non significa niente, però è curioso questo dettaglio qua. Niente, comunque, allora, questi pagani dovrebbero essere rimasti 100-200 anni. Sembra che siano stati chiamati da un certo Berengario per proteggere lì il passaggio del Lucomani, perché questi qui, a quanto pare, cioè, i saraceni furono chiamati da Berengario, esatto. Già capito, pare che i saraceni si vendessero a miglior offerente, ovviamente, non glielo dire, naturalmente cosa, naturalmente non insomma è così si dice, ecco. E comunque sono rimasti e hanno costruito questi affari qua come posti di controllo del passaggio del Lucomagno, perché erano degli ottimi alpinisti saraceni suddetti, essendo popoli del deserto, vero? Questi sapevano ottimamente costruire in montagna, l'hanno portato sui blocconi e si sono messi lì a fare cosa non si sa, ma si sono piazzati lì. E questa è la teoria del Pometta, che è stata poi criticata in seguito invertendo la cosa, cioè no, Pometta, ma c'erano i saraceni, come no? Però c'erano, ma queste qui erano case che hanno costruito i Blegnesi per nascondersi, capirei come ti nascondi poi, per sfuggire ai saraceni. Quindi andavano, che erano tantissimi e cattivissimi. Ora, se voi vedete le case dei pagani esistenti, comunque quelle che ancora quei residui che si possono vedere, sono comunque casine piccole, cioè non è concepibile che una popolazione si nasconda lassù, non è neanche pensabile, si può nascondere in 5, 6, 10, proprio da stretti, però se stai stretto puoi fuori il cibo, non è che se no non ci sta, è una cosa veramente che loro si sono immaginati con delle teorie più bizzarre. Tutto questo spesso e volentieri anche per contrastare questa questione della casa dei pagani, perché stiamo sempre parlando di ipotesi che vengono fatte per delegittimare quello che diciamo in discussione noi. Questa faccenda qua, no? Ora, scusami, sì. E non è un caso che non ci si riesca ad arrivare, perché è sistematico l'annullamento della memoria, cioè il tentativo di annullare la memoria dei reperti storici che non entrano nel puzzle che loro hanno costruito e che tentano di farci passare per buoni. Per cui meno si vede, meno si capisce, più cadono e meglio è. Cioè, non è un caso, voglio dire, che le testimonianze delle popolazioni preromane in arco alpino, che sono popolazioni autoctone, sono state sistematicamente nascoste per secoli nei sotterranei dei musei e anche oggi vengono esposte soltanto proprio se c'è posto, e ti dico, ma scusa, perché non li metti fuori? E questi dicono, ma perché i reperti romani sono più belli. Signori, cioè non sto scherzando. Guardate, oggi, adesso ve ne racconto una tanto per riderci sopra. Oggi ero ad un convegno nazionale di psicologi e psichiatri, quindi gente che teoricamente dovevano aver studiato, e mi chiedono di fare un intervento sull'antropologia degli archetipi. Io mi preparo il mio intervento su Jung, le immagini archetipe e così, e ovviamente comincio a parlare di storia dell'uomo, perché questi archetipi si sono formati in centinaia di migliaia di anni. Parlo dei neandertaliani. I neandertaliani sono il primo ceppo umano che dimostra, di cui abbiamo testimonianze archeologiche, di culto dei morti e di rappresentazioni simbolico-religiose. Il capo di questi, nonché organizzatore del convegno, mi fa un'obiezione seria di questo tipo. Ma il Neanderthal non è intelligente. Anzi, il Neanderthal non ha, queste le parole testuali ma serie, non ha un'espressione intelligente. Al che io gli rispondo, sa, nessuno di noi ha avuto l'opportunità di guardare negli occhi un Neanderthal per valutare la sua espressione. E questo mi fa testualmente, ma dalle ricostruzioni è così brutto. È bruttino. È bruttino, però voglio dire, ho capito. Pensa come ti direbbe lui se ti vedesse, no? Voglio dire, non lo so. Cioè, voglio dire, lo so, è chiaro, no? È bruttino. Comunque, questa è stata l'obiezione seria di uno psichiatra organizzatore di un convegno nazionale, quindi voglio dire, siamo a questo livello, quindi figuriamoci questi qua come hanno tentato e tentano di distruggere tutto ciò che non entra nella loro ricostruzione. Ecco, ecco, dopo bisogna dire che ci sono state altre interpretazioni più tecniche, per esempio c'è una che dice è forse vero, io sinceramente non ho fatto controllo, però dicono che con questi circa 10 siti chiamati Casa dei Pagani fosse possibile comunicare, ecco, per segnalare l'arrivo di nemici o cose del genere. Sinceramente non so dire se è possibile, però è plausibile, però certo. Però è stata criticata, secondo me ha ragione, da un altro ricercatore che ha detto, ma cioè, se voi fate questa ipotesi qui, voi presupponete un'organizzazione militare tale che in Blenio allora non c'era, perché c'erano dei comuni isolati, separati, con nessuna intenzione di organizzarsi militarmente, tant'è vero che poi il patto di Torre del 1182 ha creato una prima che poi, un primo germe che poi in realtà è una cosa che secondo me va rivista bene, va interpretata per quello che era, perché si dice il patto fra le popolazioni e i villani, bisogna vedere, perché probabilmente è un patto tra alcuni leaders dell'area che hanno deciso tra capi clan, tanto più che davano poi la valle in mano alla chiesa di Milano, in realtà questo patto di Torre, per togliersi di mezzo il potere secolare lì nel castello. Comunque, ecco, poi dopo, andando avanti su cose che poi io ho scoperto dopo che ho rivisto questa questione della Casa dei Pagani sul testo di Bertoni, salta fuori, voi forse chi vuole della Val di Blenio, salta fuori la questione degli ebrei. Stata fuori la costruzione degli ebrei che è stata proposta da Mariella Becchi, che dice, voi dimenticate una cosa, la diaspora degli ebrei spagnoli, di cui lei ritiene di aver individuato, io ammetto la mia ignoranza in merito, quindi ve la do come si legge, di aver individuato dei reperti, di questi spagnoli lì, delle scritte di questi ebrei, e tant'è vero che a un certo punto spiega che le nevere, che sono quegli affari rotondi che ci sono in Val di Blenio, alcune di queste, in realtà fossero dei bagni per delle abluzioni rituali per gli ebrei. Io non lo so, sinceramente io vado così. Comunque, in ogni caso, questa faccenda degli ebrei è molto limitata come teoria per interessare noi, nel senso che si parla dopo il 1500, 1450. Comunque gli ebrei ci sono in arco alpino. No, ci sono, però lì questa diaspora lì è quel periodo lì, quindi quando già si suppone che le prime case dei pagani fossero state distrutte da 500 anni. Da 500 anni, per cui è poco probabile che ci sia. Però è anche vero, non bisogna mai sottovalutare appunto il fatto che pagano significa anche miscredente in senso lato, non necessariamente pagano come resistente ultimo resistente di una popolazione antica alla cristianizzazione. Potrebbe non essere del tutto fuori luogo pensare anche a questi che si siano rifugiati lassù, questi ebrei, per sfuggire anche loro a possibili tentazioni persecutorie dei cristiani, no? No, e come? È possibile anche questo. E come? Anzi, la figura dell'ebreo errante è una figura onnipresente nella memoria leggendaria alpina. Ricordiamoci che la prova dello sterminio delle streghe viene fatta con lo sterminio degli ebrei, e c'è una storia strepitosa che è quella del protocollo dei sette savi di Sion. Ad un certo punto Filippo il Bello deve procurarsi la grana per fare l'ennesima guerra, e siccome non sa che cosa fare, incolpa gli ebrei, incolpa prima i lebbrosi, e vabbè, con i lebbrosi a gioco semplice, incolpa i lebbrosi di avvelenare i pozzi e ne fa sterminare diverse migliaia. Dopodiché incolpa gli ebrei che, secondo lui, in combutta con i lebbrosi avrebbero voluto avvelenare i pozzi, e fa trovare in sette punti diversi della Francia questa lettera, che noi abbiamo ancora perché c'è agli archivi, che è appunto il protocollo dei sette savi di Sion, che è il primo complotto provato della storia europea, in cui in ebraico si danno istruzioni ai rabbini, agli ebrei, di avvelenare i pozzi. Ciò che ci fa capire che è falso, per cui è stato preso un ebreo e probabilmente sotto tortura obbligato a scrivere sta roba, è che la data secondo il calendario cristiano in ebraico, ma secondo il calendario cristiano, per cui sto povero Cristo, che probabilmente fu torturato per scrivere sta roba e poi fatto sparire, okay, lasciò una testimonianza sua del fatto che quella roba lì era falsa, per cui scrisse un qualche cosa che un ebreo non avrebbe mai scritto, in cui si vede chiaramente che sotto dettatura di un cristiano, no? Per cui già dal 1200 ci sono i primi pogrom di massa verso gli ebrei, e ci sono ebrei che scappano in arco alpino. Non solo, ci sono alcuni posti, per esempio Piuro, che fu questa città valchiavennasca che venne distrutta da una frana del 1600, che ottenne la licenza di poter avere, era una città commerciale molto ricca, che ottenne la licenza, che si conservò gelosamente, di poter avere in città senza persecuzioni ebrei cattolici e protestanti. Nella stessa chiesa di Briga noi abbiamo tombe di ebrei cattolici e protestanti nella stessa chiesa, per cui noi sappiamo per certo che gli ebrei c'erano, ci sono sempre stati, addirittura ci sono dei posti in cui si sono mantenute per secoli comunità ebraiche segrete, e che sono venute alla luce soltanto 6 o 7 secoli dopo, ed è chiaro che la gente del paese lo sapeva, perché gli ebrei notoriamente si sposano solo fra loro. Quindi figuriamoci, in questi piccoli paesi c'erano 3 famiglie ebree, si sposavano sempre fra loro, facevano i riti segreti fra loro, figuriamoci se tutti gli altri erano così cretini. E certo che lo sapevano, ma stavano zitti, come sempre è successo. Ecco, per cui di sicuro gli ebrei c'erano, di sicuro, cioè altre testimonianze ci dicono che gli ebrei si nascondono in foresta con gli uomini selvatici, le streghe, eccetera. Sono proprio, c'è questa popolazione flottante, c'è questo storico che è uno dei pochi che si occupa di queste popolazioni residuali, di reduci, di fuggiaschi, che è Camporesi, e che parla proprio di questa popolazione delle foreste fatta di gente che scappa, di gente che cerca di sfuggire all'autorità. e che stanno principalmente sulle montagne. Quindi gli ebrei ci sono e gli ebrei stanno assieme a tutti gli altri, che stessero nelle case dei pagani. Cioè, che i pagani se li fossero pigliati e tenuti, è molto plausibile che ci stessero gli ebrei nel 1500. Sì, perché poi sicuramente i pagani, gli ebrei non li mangiavano. No, non li mangiavano. Secondo la leggenda mangiavano solo la carnina dei cristiani. Sì, appunto. Quindi quella degli ebrei no, e neanche quella dei saraceni. No, poi figuriamoci. Ecco. Sì. Però ci sono ancora due o tre cosine da dire. Una riguarda gli anabattisti, perché poi è successo questo, che oltre agli ebrei è stata tirata fuori la questione degli anabattisti. Ha detto, vabbè, magari gli ebrei non sono venuti qua, però gli anabattisti sì. Gli anabattisti scappavano da Zurigo, dove avevano litigato con i cattolici, con i protestanti, con tutti. E i anabattisti sono un po' anche loro gente un po' particolare, cioè loro in sé sono insofferenti all'autorità, diciamo così. C'è un problema che loro hanno conquistato una città in Germania e lì hanno decretato il loro potere assoluto su questa città, con cose un po' interessanti, un po' meno. Cioè, per esempio, avevano imposto l'obbligo di lasciare aperte le porte di casa, aperte, non aperte spalancate, si capisce, però aperte in senso che ognuno potesse entrare nella casa di chiunque altro a prendere quello che gli serviva, perché propagandavano la comunione dei beni. Però hanno un pelino esagerato, nel senso che hanno propagandato anche la comunione delle donne, e dopo, naturalmente, un po' le certe donne erano d'accordo di andare col primo venuto. E un po' i mariti erano gelosi, quindi dopo è successo un casino, la storia degli anabattisti lì è finita. Tu ti riferisci ai valzer? No, proprio agli anabattisti, nel senso che sono poi quelli che in America hanno preso il nome di Amish. Ah, ok. Quelli che poi hanno preso il nome. Gli Amish no, quelli sono tranquilli, però questi qua erano. Sì, poi bisogna vedere quanto fosse vero questa storia e bisogna, quanto fosse che le ha raccontata dopo, perché loro li ha sterminati. Poi dopo, sfruttando questa storia, che erano peggio gente, li hanno sterminati tutti. Anzi, hanno decretato la pena di morte su qualsiasi di loro che venisse preso. E non è da escludere che alcuni di loro, perché così si suppone che abbiano trovato rifugio, magari anche, forse no, però magari anche una casa. Sicuramente in Arco Alpino. In Arco Alpino sicuramente. C'è poi un'altra storia, che è quella di... c'è uno svizzero, si chiama Sergius Golovin, che è un ricercatore di magia nelle Alpi. Non so fin che punto sia affidabile, ma lui ha costruito un'altra teoria che non tocca direttamente la questione della casa dei pagani, però lui dice, la cosa è divertente perché poi ci sono degli agganci, dice che gli antichi abitatori dell'Alpi in realtà non fossero reti certi, ma rom provenienti dall'Asia. Dopo ognuno ci mette la sua, capite? Questa ipotesi qua, porta un sacco di c'erano anche loro, dice magari sono questi qui che sono venuti qua, il che poi spiegherebbe perché poi molte volte le leggende, sicuramente non c'entra niente, però molte volte le leggende si trova la parola zingaro al posto al posto di pagano o di uomo selvatico, o di uomo selvatico zingaro, pagano, quindi chissà se anche lì ma lui si fa questa teoria perché ha ritrovato dei testi in sanscrito, ma più perché lui è più un ricercatore culturale, penso che si basi più sulle leggende, le figure dell'immaginario. Bravo, quindi comunque lei in una parola ha detto io ci avrei messo 10 ore per scrivere queste cose. I Rom, allora, è testimoniato l'arrivo dei Rom dall'India dal XIII secolo, testimoniato, però è testimoniato, ciò non vuol dire che non ci fossero dei gruppi che si fossero mossi prima, e sta gente, cioè noi dobbiamo pensare, questi qua che avevano chiara la concezione che erano delle popolazioni perseguitati, sì. Perché questi rom, sì, ma non scemi, questi si muovono nella foresta, ecco, e lasciano perdere le città, tant'è vero che una delle caratteristiche delle popolazioni rom dove sono rimaste, nella fattispecie in Inghilterra e in Irlanda, e che quindi poi sono sbarcati sull'isola e lì hanno dovuto continuare a star lì senza potersi più muovere, è che queste qui sono popolazioni di gente che è sempre vissuta in foresta, tant'è vero che noi abbiamo parecchi dipinti, per esempio inglesi o irlandesi del 600-700-800, in cui si vedono questi accampamenti e loro continuano a vivere in foresta. Per cui dal 1200 arrivano e sono segnalati nelle città. Questo non toglie che probabilmente da prima questa gente arriva e rimane dove sono sempre andati tutti perseguitati, tutte le popolazioni in fuga, quindi nella foresta e in montagna, e che questo rimanga nella memoria, e che questi vanno a mettersi con, come ancora succede oggi, con le frange marginali e cercare di nascondersi da quelli che vogliono fargli la pelle, perché questo è. Quindi il fatto che possano esistere dei gruppi rom anche prima del 1002, secondo me è plausibile, ci sta dentro, fa sempre parte di questa popolazione dei boschi. Sì, sto Golovin parla dell'800, però sì. Lui è uno che si faceva di funghetti, quindi non sarei così sicuro della datazione di questo qua. Io direi, come ultimissima cosa, mi preme dirlo, è l'interpretazione di Jürgen, che è un architetto, però è lì che scelgo, perché secondo me lui ha dato la definizione più bella della casa dei Pagani, che mi preme veramente darla come conclusiva, perché è la cosa che io ho amato di più di tutta questa ricerca. Lui dice: guardate, non si sa bene chi deve abitasse queste case, però una cosa è sicura, è la ricerca ancestrale di una popolazione del grembo materno, della terra, dell'origine del suolo e della natura, che si contrappone, lo dice questo architetto, lo dico io, che si contrappone a questi tentativi fallici, svettanti della Chiesa di capovolgere il rapporto che la gente ha, cioè le persone, gli umani hanno con i suoli. E quindi lui dice: guardiamo bene, sono tutte queste caverne, cioè non è casuale questa cosa qui, perché è vero, l'architettura delle cose è tipica del Ticino, rifugio sotto è tipica di tutto l'arco alpino, la nostra gente ama i buchi sotto roccia. Se voi pensate, la nostra gente ricerca i ripari sotto roccia, cerca in tutti i modi di sfruttare le cavità della montagna, di vivere sotto i sassi. La nostra gente ama i sassi. Anche il mare. Io. Però, visto che stiamo qua, il mare non c'è. Ecco, ad altra gente che non ha la nostra cultura farebbe paura di vivere sotto un sasso a questo livello, mentre i nostri lo guardano e dicono: beh, invece di fare il tetto, no, è comodissimo. Ecco, ti assicuro che chi non è abituato ad avere rapporti culturali stretti con i sassi avrebbe una paura folle. Tieni conto che la nostra è una cultura della pietra, per cui da sempre la pietra indica il sito sacro e la divinità. Da noi ancora oggi, in tutti i giardini nostri, c'è un sasso. E tu dici: ma perché ti hai messo il sasso? A bene bene. Come, che sei scema, un sasso. Non solo, da noi i sassi si mettono anche all'incrocio delle strade. Perché? Beh, perché? Cos'hai, bel? Cioè, la gente va a cavarsi i sassi e se li piazza davanti a casa. Perché? ci piacciono. Secondo l'interpretazione di Neumann, della Grande Madre, sì, i sassi rappresentano la Grande Madre perché i sassi sono le ossa della terra. Quindi la nostra è una cultura di antico retaggio matriarcale, fra l'altro. E quindi questa cosa dell'abitare le cavità per noi è naturale, per altri è spaventoso. Quindi è chiaro che questa gente, questa popolazione in fuga, anche architettonicamente, sì, trova rifugio all'interno del grembo materno, di quello che considera il grembo materno e che è sempre stato il posto di chi scappa. Ha detto tutto lei. Adesso devo parlare loro, però. Rispetto a questa cosa, mi ha ricordato moltissimo quel che si trova facilmente nel centro Italia, cioè Maremma, Tuscia, Laziale, Umbria, no, e più su fino al Monte Sicilia, eccetera. E anche lì confine politico tra Stato della Chiesa e lo scampo, eccetera. E anche lì ci sono tantissimi eveni, no? E anche lì ci sono tantissimi ipogei scavati da migliaia di anni fa, quindi cioè, in realtà c'è questa linea di sussistenza di quel che è proprio il classico, perché sono le origini profonde, no? che si vedono anche nel, non so, mi è capitato di cose simili in Marocco, nel verbe di Marocchino. Tu hai parlato molto bene, sui Monti Sibillini c'erano le Sibille. Le Sibille era questa antica popolazione patriarcale guidata appunto dalle Sibille, le quali non si cristianizzarono fino al 1300, quindi anche questi siamo nello stesso reso culturale. Non si cristianizzarono fino al 1300, diedero rifugio a tutti, da Agrippa, Fonnette, Shaim, a tutti gli alchimisti, a tutti quelli che scappavano dall'Inquisizione, e furono ad un certo punto accusate dal Papa di volerlo avvelenare a distanza, cosa che sicuramente queste volevano fare. E che questa è non corrispettate i cattivi. È vero, appunto, però poverine. Tant'è vero che fu bandita una crociata contro di loro, entrò l'Inquisizione in massa e le bruciarono a centinaia. E quindi anche qua ci troviamo di fronte ad una vera e propria cultura delle streghe. Questa è proprio cultura delle streghe, perché si dice proprio streghe, no? Che avevano questa visione matrifocale della natura e non fallica, come giustamente diceva lui, cioè vedi proprio una differenza nei luoghi. Non è un caso che questa gente abitasse le grotte, cioè i romani non si sarebbero mai sognati di andare in un buco. Si vede proprio, cioè questa differenza è proprio mai. Infatti i romani costruiscono delle splendide architetture di pietra tutte sopra terra, l'equivalente dei nostri grattacieli di oggi, no? Mentre invece la nostra gente utilizza il massimo della natura. Per esempio, noi sappiamo che i boschi sono selezionati e coltivati fin dai Liguri, quindi cioè le specie boschive vengono selezionate, quindi queste avevano una conoscenza profondissima della natura, cioè loro non vanno contro la natura ma cercano di sfruttarla, cioè di conviverci sfruttandola al massimo, ma nel massimo rispetto, senza modificarla. I romani, popoli patriarcali, hanno una concezione completamente diversa, cioè distruggono per costruire. I romani sono i peggio disboscatori dell'antichità. Non è un caso che quando l'impero romano cade torna il bosco. Quindi, ecco. quando prima avete citato il Santo Carnegie di Carlo Borromeo, secondo me vale la pena ricordare un fatto storico che secondo me merita. Infatti, quindi Gerolamo Dorato, detto il Farina, l'uomo che sparò a San Carlo col primo archibugio. Non so, ripetere te, io ho letto il libro, però ti sicuro che posso spiegare meglio come avvenne questo, chi era Gerolamo. Ma mi sembra che fosse un ticinese, se non mi sbaglio, sì. Di Astario, no? O no? Era ticinese, lui era un frate. Del umiliati, può darsi che ci sia. No, ma se volete vi racconto la storia di questi qua perché è strepitosa. Sì. Allora, lui sfortunatamente non lo mancò, ma aveva le pallottole, no, aveva la pallottola di piombo molle. Signori, aveva la pallottola di piombo molle che non arrivò al cuore. Perché? Allora, questi umiliati, poi furono bruciati tutti come re. Allora, questi umiliati sono della gente stranissima. Perché questi qua, dice la leggenda, che fossero un ordine di frati un po' strani, perché si sposavano, quindi insomma già si capisce, no? Non solo, ma queste erano delle leggi strane, perché nel loro ordine dovevano andare su ad anni alterni un abate maschio e una badessa femmina, perché dicevano: se Dio ci ha creati diversi vuol dire che entrambi abbiamo il nostro ruolo, non sappiamo quale sia, ma allora questi qua, dice la leggenda, che si presentassero un giorno attorno all'anno 1000, frati bianchi si presentano ai nobili di Milano e gli dicono: noi vorremmo poterci insediare a Milano. I milanesi ovviamente manco se li filano. Allora questi gli fanno: ma noi abbiamo un segreto. E già la cosa comincia ad essere, ma questi qua evidentemente, figuriamoci, chissà da dove arrivano, sono dei barboni. E quindi dico: ma che segreto? Segreto da cash! In quel momento gli si alzano le orecchie, perché sapete che Milano era l'unico posto dove uno non diventava nobile per nomina papale o per discendenza, ma per reddito. Quindi quando sorpassavi un certo reddito diventavi nobile. Nessuno voleva diventare nobile perché? Perché se eri nobile dovevi armare tu un gruppo di soldati e quindi contribuire, e quindi i milanesi pagare le tasse è sempre stata una cosa che non andrà mai. Allora questi gli dicono: guarda, noi sappiamo fabbricare il feltro. Il feltro fu la prima stoffa impermeabile della storia dell'antichità. Questa è la ragione per cui la pallottola non arrivò al cuore, perché questi umiliati facevano dei panni di lana bellissima, molto spessa e impermeabile, con la quale era rivestito il Santo Carnefice e che fermò la pallottola di piombo molle prima che arrivasse al cuore, no? E insomma, questi qua avevano questo ordine particolarissimo, per cui nell'ordine erano un ordine di frati lavoratori, ce la cianciano con San Francesco e tutte queste balle. Gli umiliati furono l'origine della ricchezza di Milano, perché costruirono queste grandi abbazie. Ancora oggi le più belle abbazie nei dintorni di Milano sono abbazie degli umiliati, con questo grande cortile davanti dove tenevano le pecore. Per fare il feltro notoriamente le pecore, e poi avevano questi laboratori, perché per fare il feltro bisogna lavare la lana e pressarla col sapone con queste grandi vasche, e questi divennero una potenza, i frati bianchi. Questi erano chiamati frati bianchi, e fra l'altro anche qua vedi mo, questi frati bianchi avevano un rapporto privilegiato con le popolazioni alpine, perché a differenza degli altri preti che non andavano in giro per i passi alpini senza scorta perché facevano, diciamo, una malvagia fine. Invece questi qua pare che chissà come mai riuscissero a muoversi liberamente, evidentemente perché, evidentemente perché con le popolazioni avevano dei buoni rapporti, per forza, perché se no finivi direttamente giù. E questa era una potenza economica, tant'è vero che quando spararono già c'erano state varie pressioni da parte del governo di Milano perché questi pagassero, e questi non pagavano. Il santo carnefice, che fu carnefice anche loro, ne prese la scusa per farli dichiarare eretici, li mise tutti dentro, li torturò e chiese a loro che gli consegnassero due cose che loro non consegnarono mai, che erano il tesoro e l'archivio. L'archivio, a loro interessava l'archivio perché questi avevano delle basi segrete in arco alpino da cui si muovevano e non sapevano come. Questo era un sistema tipo i templari e probabilmente degli ottimi rapporti con le popolazioni per cui le facevano passare, avevano delle case amiche. Gli umiliati non se la cantarono mai e furono bruciati alla vetra. Quindi e il Fantoni appunto è uno di questi, e anche lui non se la cantò mai, e anche lui fu l'unico che ad un certo punto si prese la briga di sparare al santo, mancandolo, perché per colmo della sfiga sto santo era vestito con i medesimi panni che gli umiliati tessevano e che quindi frenarono la pallottola di piombo molle. Invece il San Pietro da Verona, altro inquisitore seccato a Milano, fu seccato molto più efficacemente lanciandogli un'ascia in testa e quello crepò. Infatti San Pietro Martire, si vede questo San Pietro Martire, famoso inquisitore, tra l'altro signori, patrono dei giornalisti, sappia che vergogna, che si vede con l'ascia qua, che è un'ottima immagine, vi assicuro. E sì, esatto, esatto, sì, sì, non sarebbe male, perché praticamente gli aprirono la testa in due, flop, così come una mela, sì, fu efficacissima la cosa, no? Ma invece purtroppo il carnefice lì, e comunque Fantoni era una gran persona, perché cioè lui... Pensiamo allora che si prese il coraggio di fare questa cosa, cioè non è facile pensare. No, io rispetto a prima quando tu pensavi hai usato con un pochino di prudenza il termine persecuzione cristiana, perché effettivamente Mosè Bertoni, quando scrive di queste case dei pagani, non ha dalla sua parte il Carbonio 14. No? Non è possibile, poi non so se lui abbia fatto una periodizzazione cronologica, ma non è possibile che lui ritenesse per persecuzione quella relativamente più recente, cioè quella dell'epoca inquisitoria, che tra l'altro è stata particolarmente feroce, soprattutto nelle zone dei Grigioni, quindi in zone abbastanza limitate. L'ho pensato anch'io, però effettivamente no, perché devo fare un'analisi anche dell'architettura delle case e queste case forti, e dal Diri dice che il periodo deve essere romanico, quindi lo colloca storicamente. Quindi lui indovina anche. Sì, indovina più o meno, sì, probabilmente non ha le competenze per decidere, però più o meno ci va vicino. Ecco. Che poi sì, lui ha preso anche delle cantonate, perché lui cita uno scritto che ricorderebbe le feste bacanali, cose così, che poi è saltato fuori, dopo lui lo ammette anche in una lettera a suo fratello, mi sembra, lo ammette che lì ha preso le accantonate, perché quella era un falso, una burlata di certi studenti, mi sembra, di una cosa goliardica, e lui ce l'ha presa per buona. Cioè, però per il periodo penso che ci va vicino. Per il periodo ci va vicino, e come? E poi sì, è vero, quella roba lì gli hanno fatto uno scherzo e va bene, però abbiamo decine e decine di rapporti in cui si dice che queste cose succedevano, come addirittura, sempre per parlare del santo carnefice, cioè queste cose succedevano e come, tant'è vero che ad un certo punto proprio la Val Mesolcina è testimone di una extraordinary rendition del 1500, nel senso che queste feste orgiastiche, i sabba, venivano fatti da tutti, compresi i preti. I preti lo facevano, tant'è vero che... Cioè è vero, non lo so. È vero che abbiamo... Sì. Tant'è vero che ad un certo punto il prevosto della Mesolcina ne combina talmente tante... A testa in giù, dicono. Sì. Che sparisce la gente, finché spariscono le ragazze del popolo, gli frega niente a nessuno, anche perché, come sempre, sto qua fa sparire le più povere. Quando cominciano a sparire le vacche, la gente si ribella e cominciano ad arrivare lettere su lettere a Milano, che insomma questo dà veramente scandalo. A questo punto cosa succede? Qua vediamo come giochi la comunicazione, perché questa è una storia strepitosa. A questo punto Carlo Borromeo, per non fare tanto chiasso, manda un drappello di suoi scagnozzi travestiti che rapiscono il prevosto della Mesolcina, e di notte, perché lo conoscevano, lo fa trasportare a Milano, quindi muovendosi soltanto di notte, segretamente, eccetera. A Milano lo processano e lo bruciano alla vetra. In Mesolcina rimase la leggenda, ovviamente diffusa ad arte dai preti, che questo qua, siccome faceva le messe nere, venne un giorno, una notte maledetta, il demonio a pigliarselo, perché questo ad un certo punto sparisce e nessuno dà delle spiegazioni alla gente. Di sicuro questo qua viene rapito dagli sgherri di Carlo Borromeo, non perché si rende colpevole di andare con qualche donna in giro, ma perché, oltre che andare con le bagasce, questo ne ha fatte di cotte e di crude per 20 anni. Quindi se lo facevano i preti, figurati il resto. Cioè qua, ma in tutto l'arco alpino rimane sede di pastorale di missione, perché la gente viene considerata potenzialmente eretica fino al 1920. Cioè qua, oltretutto poi qua c'era anche un'altra cosa che nessuno dice, però succedeva in gran parte dell'arco alpino, cattolici e protestanti vivevano assieme e nessuno diceva mezza parola. Cioè voglio dire, io che vengo, cioè l'ultima guerra che c'è stata in Svizzera proprio per quella ragione. Io vengo dalla Valchiavenna, in Valchiavenna se tu vai negli insediamenti più alti dove una volta viveva la gente che poi dopo si è spostata a cavallo, eccetera, vedi le case, in alcune c'è sulla croce, in altre no. Cioè, protestanti a Piuro l'avevano proprio come licenza, però Piuro era proprio una città sotto gli occhi di tutti, con tanto di prezzo, era una città grande per allora, ma in tutte le frazioni, in tutti i paesi di montagna, protestanti e cattolici vivevano assieme e lo sapevano tutti. E nessuno si denunciava, avevano sempre vissuto assieme ed evidentemente lì l'ingiunzione di andare via non fu seguita, perché quelli stavano lì e lì rimasero. Quindi sai. Guarda lui. Io ho una domanda per tornare un po' all'aspetto proprio tattico funzionale di questi casi dei pagani. Ma non è mai stata fatta l'ipotesi che non potesse essere utilizzate, per esempio, in un periodo dove vi fosse un passaggio di qualche popolo, come zona, diciamo, di stoccaggio, conserva di alimenti, sì. E poi in quel caso, per esempio, delle eventuali passerelle avrebbero potuto essere asportate, in modo che possa risultarsi così ostile e raggiungibile, che avrebbe dissuaso questi. Certo, è stata fatta, sì, come, sì, come posto di stoccaggio per alimenti in caso di passaggi di ostili o anche di carestia, sì, è stata. Ma non è nulla, dicevo, il mistero permane, quindi nulla escluso, però secondo me è bello, è bello, perché quando il mistero sparisce vuol dire che non sempre, però delle volte si è fatta una scelta magari sbagliata, si è per esempio deciso, c'è il mistero della vita, allora scegliamo Dio come soluzione, cioè voglio dire, delle volte si fanno delle scelte così. Però su quello che dici te, effettivamente io credo che ci sia una risposta seria da questo architetto che ha detto, che ha stabilito con le sue ricerche, guardate che comunque erano abitate queste cose, cioè non era semplicemente un magazzino, ma si vede proprio le tracce di una costante abitazione, appunto, popolari, con coltivazioni, con focolari, con magari poi anche nel secolo la funzione è cambiata, magari però questo è possibile, questo assolutamente sì, assolutamente sì, come può esserci una grotta che prima viene abitata poi diventa un rifugio per capre, cioè una cosa anzi soprattutto no, è vero, sì è possibile, certo, è poi anche possibile che poi successivamente, cioè come costruzione, come idea di costruire quella cosa lì come deposito, è poco probabile, proprio perché si vede la funzionalità dell'abitazione nel poco che si è prevede. Però che successivamente, magari metti nel 1300 per un motivo, che si è detto, beh, c'è quel posto lì, mettiamoci, stocchiamoci il grano, non lo so, è possibilissimo, certo, come no. Mi approfitto anche per chiedere, ma all'inizio hai detto che in Val di Vè ci sono tanti toponimi che hanno delle... Sì, molto. Però comunque a me risulta che su 16 ce ne sono una dozzina, ce ne sono comunque quelle di Torre, di Mosto, di Acqua e di Marotta, che sono considerate anche come case di pagare, sì. Quindi c'è una concentrazione abbastanza proprio netta. Sì, nettissima. Diciamo tre quarti sicuramente sono tutti in Val di Vè, certo. Ma... Diciamo che c'era qualcosa anche qua nel Luganese, non so se in Pollina d'Oro, che era più che altro un monumento dei pagani, che praticamente non so se dei sassi praticamente ci hanno costruito sopra delle cappelle che sì, in qualche modo erano allineate con gli astri, no? Sì, anche lì la Curia ha fatto di tutto per dire ma no, sono tutte storie, ma gran parte delle chiese sono state costruite su templi romani. Sì. Però la storia del Massimo Bellare è beh, insomma, se voi andate, allora io quella chiesa lì è strepitosa. Cioè, nei Grigioni, mi sembra che sia in Valcalanca, però questa chiesa tonda, che sembra una torre con dentro lo scivolo della fertilità. No, voglio dire, è una roba favolosa. Noi siamo andati lì e lì è evidente, perché da lontano sembra una torre, poi si capisce che è una chiesa e dentro è tutta occupata da questo scivolo, che chiaramente è uno scivolo della fertilità, un masso coppellato, ma grande, cioè è alto così, cioè proprio una roba... Non solo, ma la cosa strepitosa è che ci sono tutti gli ex voto dentro, perché è naturalmente un santuario in cui si ringrazia la Madonna per la grazia di aver fatto nascere un bambino, e la gente continua a scivolarci sopra. Non solo, una volta lo facevano solo le donne, ma io ho fotografato anche dei maschi e dico: ma scusa, ma... E questi mi fanno: beh, perché se fa bene alle ragazze, perché a noi da farà pur bene anche a noi, no? Ecco, quindi, cioè, voglio dire, robe come queste dovunque se ne beccano, eh? La chiesa di San Zeno, sai, fare qualche qua vicino. Sotto c'è la grotta. Evidente. Sì, è proprio evidente, ma segreto che c'era tutto. Una piccola domanda sulla Leventina, se posso, anche sulla Leventinese. E mia nonna mi ha sempre parlato di questa torre pagana che c'era a Stalvetro, sì. Questa gola di Stalvetro, di un castello, diciamo le streghe il giovedì, anche la zona, e in alcune case sembrava che ancora di notte si sentissero le grida di queste streghe, ecco, molto... Ma è vero, cioè, perché io l'ho cercata molto questa torre pagana. No, cioè, è documentata questa torre pagana di Stalvetro, però l'hanno, secondo le ultime ricerche, l'hanno classificata come non veramente una torre pagana, l'hanno classificata come una torre difensiva, che non si è ancora capito perché abbia preso quella, però sembra proprio che come architettura esisteva, adesso io non so dirti bene in che stato, se ancora si vedono delle vestigie, non ho idea, però effettivamente se ne parlate questa qui come, e viene chiamata torre pagana, ancora, sì, cioè si ha memoria di questo fatto qui, ma dall'architettura sembra che non rientra comunque in questo tipo di costruzioni come i Val di Blegno, assolutamente. Però dai, sai, dopo effettivamente è vero che dalle volte da cosa nasce cosa, voglio dire, hanno trovato tante là, perché non affibbiarli anche a questa torre qui, certo. un mistero di questo tipo qua. No, poi pensiamo, allora, una cosa sicuramente è chiara, cioè questa gente qua che ha costruito quelle cose lì era gente perfettamente in grado di costruire, cioè gente che sapeva usare tutti i mezzi, i materiali, le tecniche, perché basta vedere dove sono. Sicuramente se questi hanno fatto delle tane di lupo di quel genere lì, non è che nella loro vita avranno fatto solo quelli, cioè qualcos'altro avranno fatto prima di mettersi là sopra, o magari anche contemporaneamente. Cioè uno non arriva ad una perizia tale senza aver mai fatto niente. È che quello che hanno fatto sta gente prima probabilmente è stato distrutto, è stato incapsulato in altre cose. Perché? Quello è possibile. Sì. Anche perché è una perizia diffusa a livello... Sì. Certo. Non è che tu arrivi a fare quelle cose lì dal niente, cioè non sono, almeno a quello che ho potuto capire io, non sono cose che si improvvisano. Sai che non ci avevo mai pensato, è possibile che ci sia quel substrato che dice lei? È possibile, non ci avevo mai pensato, perché l'hanno esclusa, no, la capiva. A Castelgrande dicono che c'erano già insediamenti, ma ancora prima dei romani su quella collina. Ah, ma quello sicuramente, insediamenti precedenti ai romani non c'è discussione, quello sicuro. Però quel fatto che avesse chiamato una torre difensiva e gli avessero affibbiato quelle leggende, che è vero, perché me lo ricordo che questa cosa qui c'è a Stalvetro, però può darsi che, come dici te, ci sia un substrato precedente a costruzione di quella torre lì, che però è raro, perché appunto in Leventina c'è solo questa faccenda di Chigionia che lascia un po' quel dubbio lì. Non è che sia frequentissimo. No, certo che no, ma anche perché, se sti poveracci qualcosa hanno costruito, gliel'hanno distrutto, questo di sicuro, no? Però tieni conto di un'altra cosa, una delle cose misteriose rispetto a queste popolazioni, non a quello che ti dicono delle popolazioni di matrice celtica in maniera idiota, era che questi qua costruivano in legno, il che è falso, nel senso che questi qua costruivano le loro case in legno perché, siccome erano intelligenti, avendo milioni di ettari di foreste con ottimi alberi per far su le case, le facevano in legno e non in pietra, e anche perché non avendo gli schiavetti come i romani, ma questi qua erano capacissimi di costruire in pietra, tant'è vero che una delle caratteristiche delle popolazioni preistoriche alpine sono questi muri ciclopici, soprannominati spesso, vedi mo, muri dei pagani o muri del diavolo. Ce n'è uno sopra Domodossola, ovviamente vicino ad un altro posto che si chiama Lago delle Streghe, perché sai, cioè, voglio dire, come al solito, se non è zuppa è pan bagnato, dove ci sono le incisioni rupestri, le coppelle e tutto il resto. Tra parentesi, al Lago delle Streghe ci hanno messo sotto una Madonna adesso, perché questo ha da succedere, no? Ecco, sì. E sto muro ciclopico bellissimo, fra l'altro anche lì, che pare che abbia le camere sotterranee, ma nessuno ci è mai andato dentro, perché cosa te ne frega di fare degli scavi archeologici su una cosa che non rientra nel tuo puzzle? No, perché siamo sempre alle solite. E quindi sta gente, e di muri del diavolo ce ne sono diversi, sapeva perfettamente costruire. Evidentemente utilizzavano le costruzioni di pietra per altri usi che non erano quelli delle abitazioni e non erano quelli dei templi. Tant'è vero che Cesare, una delle cose che lui ci dice, scandalizzatissimo, è questa gente qua non ha templi, e riferisce ciò che i druidi gli dicono, insomma, noi non siamo mica come voi, noi non ci sogneremmo mai, e questo è proprio ciò che i sacerdoti celti gli rispondono, noi non ci sogneremmo mai di racchiudere il Signore in 4x4 mura, come fate voi. Quindi evidentemente questi sapevano costruire in pietra, ma costruivano per delle ragioni che a noi ci sono ignote. Quindi poi anche i castellieri sono queste, cioè loro cosa facevano? Prendevano, e gran parte dei castelli sono costruiti su castellieri, prendevano la cima di un colle, lo spianavano letteralmente, quindi questi evidentemente sapevano lavorare. E poi ci costruivano tutto attorno un muro così. Quindi questi sicuramente sapevano fare i muri a secco e bene. Avevano un uso diverso dal nostro, ecco. Quindi vai a capire. A secco, io ho visto alcuni, si chiamava Sforzvata, l'antica Gandria, sono tutti muri a secco, però sembrano delle terrazze per coltivare. Ma non è che le due cose siano in contrapposizione, cioè siamo noi che abbiamo quest'idea di un uso univoco dello spazio. Probabilmente con coordinate mentali completamente diverse dalle nostre, che standardizziamo le cose, cioè questi qua, almeno a quanto siamo riusciti a capire, per esempio sui castellieri, questi qua hanno cominciato a dire: ah, sui castellieri loro ci avevano le fortificazioni. In realtà le fortificazioni ce le hanno fatte nel Medioevo, ce le hanno fatte i romani, perché i romani, quello che noi sappiamo è che cercano di obbligare sta gente a costruire le loro fortificazioni sui loro antichi castellieri. In realtà noi sappiamo che sicuramente i castellieri avevano un uso rituale sacrale, ci facevano le assemblee, questa gente aveva un tipo di governo, un tipo assembleare, le assemblee sono testimoniate, ci facevano dei riti sacri, probabilmente ci si rifugiavano in caso di assedio, ma vivevano fuori, non vivevano sul castelliere, non erano mica scemi, stavano nei posti più comodi, magari li coltivavano anche. Vai a capire, cioè, sono talmente poche le fonti certe che noi possiamo andare solo per supposizioni. Cioè, che ci facessero le assemblee, riti sacri, è sicuro, perché questo è testimoniato da storici romani. Che ci si rifugiassero in caso di assedio è molto probabile, molto molto molto probabile, e che invece i romani avessero capito benissimo che potevano usarli per fare le fortificazioni, tant'è vero che loro obbligano i nostri a farci sui castelli, e questo è testimoniato, cioè ci sono degli ordini precisi. Quindi, sai, anche perché poi sta gente non scriveva, la loro voce, sai, c'è giunta solo con pochi episodi tramandati dai romani che li hanno sterminati, quindi sai. Beh, se tutto ci dobbiamo appuntare per domani, è stata una bella coppia, eh? Altro che più robe di storia. Andiamo a vedere una alla Casa del Popolo per andare a vedere il dolmo e la base. Ma no, Guarda, questa è una storia secondo me bellissima. In effetti, dico la verità, bella, ne aveva parlato mia nonna, e appunto c'era la piccolina, lei ne parlava di questo, e comunque nell'adolescenza non mi è mai interessato, ora è veramente affascinante. Poi sentita raccontata così è ancora più bella. È bellissima. Grazie. Ciao. Allora, adesso qualcuno mi fa accendere a me. Mi fai accendere, per piacere. Oh, come posso spegnere questa cosa? La schiaccio un'altra volta. Sì, io dormo.